devi volere bene perché sono solamente un brutto esempio. Mi devi volere bene perché non so stare bene al mondo. Mi devi volere bene perché soprattutto sbaglio e giro attorno. Mi devi volere bene perché quando bevo sono sbronzo. Pretendo amore perché non so star bene con me. Io dico no, no, non ci credo. Io dico no, no, no, io così non ci sto. Io dico no, non è vero. Io dico no, no, no, quel che voglio lo avrò. E voglio tanto amore per errore o per magia. Lo voglio avere basta, senza fatica, è roba mia. Voglio menare le mani con Babbo Natale, rubargli i regali e tenerli per me. Voglio tornare a giocare con i soldatini o agli indiani cattivi e non pensarci più. E allora due bambini mano nella mano sopra un prato verde fanno l'aeroplano. Due bambini mano nella mano sopra un prato verde fanno l'aeroplano. Perché sono molto poco interessante. Mi devi volere bene perché sono brutto e ignorante. Mi devi volere bene perché sono bugiardo con le gambe corte. Mi devi volere bene perché io ho paura della morte. Io voglio amore perché non so star bene con me. Ti dico no, no, non ci credo. Ti dico no, no, no, io così non ci sto. Ti dico no, non è vero. Ti dico no, no, no, quel che voglio lo avrò. E voglio tanto amore per errore o per magia. Lo voglio avere basta, senza fatica, è roba mia. Due bambini mano nella mano sopra un prato verde fanno l'aeroplano. Due bambini mano nella mano sopra un prato verde fanno l'aeroplano. Oh.